l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, come ogni settimana qui per raccontare il percorso europeo. Lo facciamo mostrando, presentando altri punti di vista. L'attualità politica, economica viene raccontata da Radio 24 giorno per giorno. Noi il sabato cerchiamo appunto anche altre sfaccettature. Un programma in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee. Tante voci diverse per raccontare lo stesso oggetto, questa strana cosa che si chiama Europa. Euronetplus.eu è il portale, ci trovate anche sul nostro sito radio24.it, le coordinate invece per incontrarci sulle nostre piazze virtuali, Twitter e Facebook, @euronetplusr24, oppure le mie personali, @FedericoTaddia. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte dalla provincia di Pistoia. Occhi da innamorata, un segreto conosce il mare, nelle mani del corallo, una lucciola da aspettare, una vela divide il vento ed il vento confonde il mare, sotto gli occhi del corallo, dico la luna da rubare. Il mistero rimane perché dalla Commissione europea hanno scelto questa canzone per presentare la candidatura della provincia di Pistoia al premio Eden, destinazione europea di eccellenza. Ogni anno viene scelto un progetto in grado di promuovere modelli di sviluppo sostenibile nel settore turistico. In tutta l'Unione Europea 19 destinazioni europee si sono distinte appunto in questo sforzo, 19 premi, uno unico in Italia ed è andato alla provincia di Pistoia. Per capire il perché, per capire in cosa è stata eccellente la provincia di Pistoia, c'è con noi la presidente Federica Frattoni. Buongiorno Frattoni. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Buongiorno. So che insomma è appena tornata da Bruxelles, dove avete qualche giorno, sì. Esatto. Con tanta soddisfazione per un importante riconoscimento. Cos'è piaciuto della provincia di Pistoia? Ma dunque, il tema di quest'anno del premio Eden è quello del turismo accessibile, quindi un turismo non solo accessibile per le persone diversamente abili, ma anche semplicemente per le famiglie, per gli anziani, quindi un turismo che declina la sostenibilità proprio in questa direzione di essere in qualche modo accessibile a tutti, universale. E la provincia di Pistoia si è distinta perché da sempre, insieme ai comuni, in particolare in questo progetto sono coinvolti Pistoia e Monsummano, sì, ha sviluppato politiche di accessibilità piena che oggi ci rendono appunto una provincia che si distingue sul tema, legandolo in particolare al turismo. Fra l'altro siamo l'unica provincia, o comunque la prima provincia, che ha fatto una vera e propria guida turistica per il turismo accessibile, cosa di cui andiamo molto orgogliosi. La guida è Pistoia per tutti, si chiama, con indicazioni per chi ha esigenze speciali di deambulazione. Poi il Museo Tattile di Pistoia, questa mostra permanente progettata per presentare la città ai non vedenti, e anche Sci per tutti, che cos'è? Sì, sostanzialmente noi, come sapete, la provincia di Pistoia ha questa grande stazione sciistica che è a Betone, un po' la culla dello sci italiano, e abbiamo optato circa 2 anni fa per una formazione a maestri di sci volta proprio alla pratica sportiva da parte dei disabili, e questo devo dire è stata una connotazione tutta particolare. I maestri hanno aderito in massa e quindi chiunque voglia venire e provare l'ebbrezza delle nostre montagne, che sono bellissime, può farle assolutamente in sicurezza, accompagnato da persone professionalmente preparate. Prima ho citato anche questo museo tattile. Museo tattile, sì, dove è possibile toccare la nostra piazza del Duomo riprodotta, devo dire un'esperienza sensoriale molto particolare, ma abbiamo anche percorsi accessibili per quanto riguarda il Padule di Fuscecchio, che è l'area umida interna più grande d'Italia, le nostre famose terme di Montecatini o il parco di Collodi, per richiamare anche Pinocchio, che non fa mai male, in quanto Pescia ospita il parco del famoso burattino. Certo. E c.europa.eu/eden per visitare il portale dedicato a questo premio. provincia.pistoia.it invece è il sito della provincia di Pistoia che ha avuto questo importante riconoscimento. Un grazie alla presidente della provincia di Pistoia, Federica Frattoni. Buon sabato, grazie davvero. Grazie tanto, buongiorno. Ci fermiamo un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Global Entrepreneurship Week. Siete giovani? Portate avanti una startup o siete imprenditori? Volete incontrare altri imprenditori con cui scambiare idee oppure conoscere le ricerche, le notizie e le opportunità per chi vuole aprire una piccola o grande azienda? Per voi c'è la settimana dell'imprenditorialità globale, dal 18 al 24 novembre, con eventi che si svolgono in decine di paesi in tutto il mondo, che si possono seguire di persona o attraverso internet. Per saperne di più, c'è il sito ufficiale unleashingideas.org. L'altra Europa. I think it's time that we decide love is our friends and we would be fools not to follow what our hearts suggest. So think you're over and let me know, girl, 'cause you and I be easier as us. Diventare Europa, dalla solidarietà all'integrazione europea dei Balcani e della Turchia. Questo è il titolo del convegno internazionale che si sta tenendo oggi presso l'Università di Bergamo. Balcanicaucaso.org, il sito per conoscere l'intero programma, e proprio il sito che ben conosciamo, è uno dei promotori dell'evento ed è anche l'evento conclusivo di questa iniziativa che abbiamo seguito nel suo sviluppo, che racconta l'Europa all'Europa. Per capire che cos'è questo progetto, per soprattutto scoprire quello che è successo, i materiali che sono stati raccolti, elaborati e quello che sta accadendo oggi a Bergamo, c'è con noi Francesca Vannoni, direttrice del progetto Racconta l'Europa all'Europa. Ciao Francesca, benvenuta all'Altra Europa. Grazie mille, buongiorno. Allora, un progetto molto importante, come già avevamo detto al momento del lancio, perché l'idea era proprio quella di raccontare l'Europa veramente all'altra Europa, non nel senso del nostro programma, ma l'Europa al margine dell'Unione, quell'Europa che un giorno probabilmente sarà parte integrante, ma è ancora lì, è un percorso in atto, giusto? È così. Osservatorio Balcani e Caucaso, esattamente come la vostra trasmissione, lavora da tanti anni per stimolare la conoscenza e il dibattito sull'Europa, chiaramente sull'Europa in generale, perché consideriamo la povertà di dibattito sulle nostre istituzioni e le nostre politiche come un deficit democratico di questa nostra Unione Europea, ma anche con un lavoro invece più specifico sui Balcani e la Turchia, che sono una parte d'Europa poco conosciuta, di cui generalmente si parla o poco o malino, con immagini stereotipate o molto molto legate al passato, che è sicuramente un passato difficile. Anche se di fatto è già il presente e il prossimo futuro dell'Europa, perché dopo l'ingresso della Croazia ci sono altre nazioni che stanno bussando alle porte dell'Unione con pratiche già avviate. Si chiama politica dell'allargamento, è una politica codificata dell'Unione Europea che ha le sue istituzioni dedicate, che si rivolge a tutti i Balcani e alla Turchia. In questo momento l'ingresso della Croazia ne è stato l'esempio proprio quest'anno, e gli altri si prevede che abbiano davanti a loro ancora parecchi anni di lavoro, perché le riforme richieste sono naturalmente riforme onerose che impegnano a tutti i livelli questi paesi. Quello che noi vogliamo raccontare è un'immagine sfaccettata, appunto, di paesi che sono sicuramente ancora molto fragili, ma che stanno attraversando una trasformazione importante, che fanno passi avanti nella loro democratizzazione e che sono anche, dal punto di vista della cultura, delle tradizioni, dell'arte, di tanti altri aspetti, paesi molto ricchi a tutti gli effetti, parte dell'Europa. Quella di oggi è la tappa conclusiva di questo progetto, di fatto è anche un punto di partenza. Quali sono state le attività salienti in questi mesi? Cosa avete raccolto? Osservatorio ha costruito un'alleanza ampia, perché per costruire uno spazio, davvero uno spazio pubblico europeo, ci vogliono tanti soggetti in tanti paesi, e quindi abbiamo coinvolto 10 partner in 4 paesi, in 5 lingue, per lavorare insieme, per produrre insieme da trasmissioni radiofoniche con 3 emittenti radiofoniche in Italia, Slovenia e Spagna, una rassegna cinematografica di cinema balcanico che ha girato l'Italia, lavori con Slow Food sulla gastronomia e sui prodotti tipici di una cultura gastronomica decisamente ricca e poco conosciuta, seminari con l'Università di Modena e Reggio Emilia sulla produzione culturale e cinematografica dei Balcani, corsi di formazione che hanno ricevuto 200 partecipanti a lezione, quindi c'è tanto interesse e siamo contenti, è ancora chiaramente un lavoro lunghissimo perché bisogna farli conoscere principalmente questi paesi. L'attivismo contro la guerra nei Balcani è il titolo del panel attualmente in corso lì a Bergamo. Alle 11.30 invece allargamento dell'Unione, questioni aperte sui paesi balcanici, alle 14.30 la tavola rotonda conclusiva l'Europa che manca, l'intero programma dal sito balcanicaucaso.org, ma dallo stesso indirizzo si può vedere la diretta streaming. Grazie davvero Francesca, complimenti per il bel lavoro, in bocca al lupo per i prossimi progetti. Grazie mille, buona giornata. Ciao. Europost-it. Stage a Bruxelles con Interface Europe. Interface Europe è una compagnia di Bruxelles che offre servizi per chi vuole partecipare a un programma di finanziamento europeo nell'ambito della ricerca, dell'innovazione o della formazione. La compagnia offre diversi programmi per stage, in cui si imparano alcune delle attività portate avanti dai consulenti di Interface Europe, come ad esempio monitorare le attività dell'Unione Europea nella ricerca e nell'innovazione, gestione di progetti, conferenze, gestione della comunicazione e dei social network, organizzare meeting. I candidati devono essere laureati e conoscere almeno una lingua ufficiale dell'Unione. Per conoscere tutte le modalità di candidatura, andate su interfaceeurope.eu. Ma l'Europa in queste ore è al centro anche di un altro importante appuntamento. Si è aperta ieri infatti Science for Peace, la conferenza mondiale promossa dalla Fondazione Veronesi. Il titolo di quest'anno è proprio DNA Europa. In questi minuti, scienza e fede in Europa, poi mercato senza crisi, spese militari all'interno dell'Unione, ancora sistemi giudiziari e carcerari in Europa. Oggi alle 12.30 un intervento conclusivo di Emma Bonino, questo è quello che sta accadendo oggi. Ieri un'altra giornata, un'altra intensa giornata di lavoro, il tutto si è aperto con un panel intitolato Europa tra federalismo e nazionalismo, con una lezione introduttiva del professor Alberto Martinelli, professore emerito di scienza politica e sociologia dell'Università degli Studi di Milano e vicepresidente di Science for Peace, e autore di un saggio appena uscito per Università Bocconi Editore intitolato Mal di Nazione contro la deriva populista. E il professor Martinelli è qua con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Mal di nazione è un titolo pessimista? Come sta questa Europa? No, non è pessimista, perché nasce dalla constatazione che il nazionalismo può essere un male per la convivenza pacifica tra i popoli, ma anche in analogia al mal d'amore della nazione ci si può innamorare, no? Con la passione e la dedizione di un rapporto d'amore, ecco perché è il titolo, diciamo. E il sottotitolo spiega ancora di più, perché è contro la deriva populista. Contro la deriva populista. In realtà ciò che viene criticato è il nazionalismo, come una ideologia che si basa sulla netta contrapposizione tra noi e gli altri, pensando che noi all'interno di una certa nazione siamo non solo diversi ma anche migliori, e che non... quindi può essere un elemento che peraltro nella storia d'Europa ha svolto anche una funzione molto negativa, contribuendo a guerre tremende, anche se per contro invece in una fase precedente è servita anche a costruire l'indipendenza nazionale degli stati nazionali europei. Quindi diciamo è un fenomeno ambivalente. Oggi mi sembra che sarebbe il caso di tenerlo un po' sottotono, insomma. Nazionalismo e populismo che la crisi ha amplificato, o la crisi è un alibi per sentimenti comunque presenti e che vengono tenuti sedati e appena possono si manifestano? Ma direi, guardi, il nazionalismo è un'ideologia piuttosto costruita e forte. Il populismo è un'ideologia debole, più che altro è uno stile di comunicazione politica, è uno stile per ottenere il consenso, diciamo. Il punto d'incontro, questa è una delle mie tesi del libro, è che, ho anche sviluppato ieri, è che l'incontro tra nazionalismo e populismo è dato dall'anti-europeismo, non solo contro l'euro, ma contro l'idea di un'unificazione politica dell'Europa. Per questo io ritengo che sia un fenomeno da contrastare. Secondo me si contrasta proprio accelerando il processo di unificazione politica, ma anche dandole contenuti democratici, perché la critica di alcuni di questi partiti e movimenti che definiscono nazionalpopulisti si basa su alcuni fatti reali, ad esempio il fatto che spesso le decisioni che riguardano le nostre vite sono prese da tecnocrazie lontane che non sono neanche state democraticamente elette. Il problema è che questi movimenti e partiti, come il Front National in Francia, il Partito della Libertà in Olanda, i veri finlandesi, eccetera, utilizzano strumentalmente questa critica per affermare un'idea che io ritengo ormai vecchia, obsoleta, di una possibilità di risolvere tutti i problemi dentro la nazione, compreso quello della crisi, mentre è vero che nessun Stato-nazione europeo oggi è in grado da solo di uscire dalla crisi e deve invece coordinarsi e collaborare con gli altri per dare una risposta comune. C'è un passaggio molto importante, almeno personalmente lo ritengo molto importante e significativo all'interno del suo saggio, che è quello relativo alla costruzione e allo sviluppo di un'identità europea. Che cos'è per lei l'identità europea e come deve o può convivere con quella che è l'identità nazionale? Ma innanzitutto, già lei l'ha detto molto correttamente, l'identità europea non sostituisce l'identità nazionale. Io non cesso di sentirmi italiano perché mi sento anche cittadino europeo, come non cesso di sentirmi milanese o napoletano nel momento in cui mi sento italiano. Quindi è un tipo di identità e di cittadinanza che coesiste, sta insieme alle altre, le valorizza anche. Quindi come si fa però? È chiaro che come si fa a sviluppare questo sentimento? Io faccio una serie di proposte nel libro, cioè intensificare gli scambi, i rapporti attraverso l'educazione, rendendo obbligatori per tutti i giovani nei vari ordini di scuola di passare dei periodi nelle scuole di un altro paese dell'Unione Europea. Io parlo di un servizio sociale obbligatorio di breve durata, ma che comunque consenta a tutti i giovani europei di impegnarsi in attività socialmente utili in un altro paese europeo, perché il migliore antidoto contro il pregiudizio, l'intolleranza, gli stereotipi che spesso sono alimentati da questi partiti e movimenti nazionalpopulisti è conoscere gli altri. Assolutamente. Se non sono gli altri ci si accorge che abbiamo molto più in comune di quanto non ci divide da loro. Professore, un'ultima domanda. DNA Europa, il titolo di questa conferenza mondiale. Nel nostro DNA un po' di Europa ce l'abbiamo? Beh sì, noi speriamo proprio, speriamo che questo emerga chiaramente. Il nesso naturalmente con Science for Peace è evidente. Noi pensiamo che un'Unione Europea forte, consapevole, può essere un attore politico globale che sia vero strumento di pace nel mondo. Perfetto, grazie davvero, in bocca al lupo per la conclusione dei lavori. E scienceforpeace.it è il sito ufficiale. Buon sabato Martinelli, grazie. Grazie anche a lei, arrivederci. Un euro post-it, la pubblicità poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Erasmus Plus è su Facebook. La Commissione europea ha lanciato ufficialmente la nuova pagina Facebook per Erasmus Plus, quello che dall'anno prossimo sarà il nuovo programma per l'istruzione, la formazione e la mobilità fino al 2020. Sulla pagina verranno pubblicate informazioni sulle possibilità di formazione all'estero, link a bandi, a manifestazioni, ad appuntamenti per i giovani. Saranno segnalati siti web e campagne interessanti. Se siete studenti universitari, siete interessati a conoscere Erasmus Plus, oppure volete fare un'esperienza di studio in un altro paese europeo, oppure ancora rimanere informati su nuove opportunità per studiare e formarsi all'estero, mettete un like su facebook.com/EU Erasmus Plus Program. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Ci siamo salutati parlando con il professor Martinelli, mal di nazione contro la deriva populista, diceva una delle sicuramente uno dei rimedi è quello di aumentare la mobilità giovanile, far fare esperienze di studio, di lavoro, di volontariato all'estero, perché il modo migliore per non avere paura del diverso è conviverci col diverso. Beh, in queste ore a Roma si sta concludendo una 3 giorni molto importante, dove i protagonisti sono proprio loro, sono i ragazzi Erasmus. Tante volte abbiamo detto che la generazione Erasmus è forse la colonna portante, la colonna culturale portante dello spirito europeo. Ci colleghiamo quindi con Carlo Bitetto, che è il presidente di ESN Italia, è la organizzazione degli studenti Erasmus che ha organizzato questa importante 3 giorni. Ciao Carlo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico e buongiorno a tutti. Siamo nel bel mezzo dell'incontro culturale Erasmus qui a Roma e abbiamo ancora una giornata molto intensa davanti a noi. 3.000 studenti Erasmus che si sono riuniti a Roma per trovarsi, per conoscersi, per ragionare. Ieri c'è stato un importante convegno. Quali sono le prospettive che avete analizzato sulla mobilità in Europa oggi? E diciamo che c'è grandissima attesa in tutto il mondo Erasmus per il nuovo programma Erasmus Plus, che verrà lanciato a giorni, su cui a dire la verità si sa ancora poco, però c'è grande attesa, c'è grande speranza proprio nell'aria, perché si parla di maggiori fondi, si parla di possibilità anche dopo la laurea per appunto migliorare le proprie esperienze dal punto di vista della mobilità, quindi siamo tutti in attesa dell'uscita di questo pacchetto che ci accompagnerà per i prossimi 7 anni e sicuramente c'è molta curiosità anche di 3.000 ragazzi che sono venuti qui a Roma per l'evento. ESN di cosa si occupa? Noi siamo presenti in 50 atenei italiani, da Trento a Catania, copriamo tutta la penisola e diamo servizi in modo del tutto volontario, quindi a titolo gratuito, agli studenti Erasmus ed Exchange che trascorrono un semestre o un anno intero qui in Italia. Diciamo che ci sentiamo ancora in Erasmus, pur magari avendo fatto l'Erasmus anni prima, e teniamo comunque a vivere la nostra esperienza come cittadini europei e internazionali anche in Italia, quindi accompagniamo proprio gli studenti Erasmus in tutto il loro percorso durante l'anno, aiutiamo a trovare casa, li portiamo a visitare le varie città, strutturiamo dei progetti a portata nazionale come ad esempio il Social Erasmus o Exchangeability, con cui diamo la possibilità a tutti gli studenti anche con disabilità di effettuare le esperienze di mobilità internazionale, quindi ci diamo da fare a tutto tondo per far veramente capire che l'Erasmus è il futuro, anche in Europa che sicuramente si trova in un periodo difficile. Una solidarietà senza confini ovviamente, perché la generazione Erasmus va al di là dei confini. Ieri per esempio avete raccolto delle firme a sostegno dei colleghi spagnoli. Sì, purtroppo è arrivata questa brutta notizia da parte del governo spagnolo che ha annunciato il taglio delle risorse governative a partire dal prossimo anno accademico per gli studenti Erasmus spagnoli. Noi in Italia abbiamo circa 9.000 studenti spagnoli che sono in scambio. Questo nella pratica vuol dire che questi ragazzi, anziché ricevere i 250 euro mensili, ne riceveranno dall'anno prossimo 120-130 al mese. È un bel taglio, con i soldi si pagano le spese della luce, del gas, eccetera. Quindi quello che stiamo promuovendo è una forte protesta, una protesta civile, ma quindi composta, ma una forte protesta. Stiamo raccogliendo le firme di tutti gli studenti spagnoli presenti in Italia e le porteremo direttamente all'ambasciatore spagnolo a Roma, al quale abbiamo già chiesto un appuntamento e siamo sicuri che non ci deluderà, appunto per fare in modo di manifestare a lui il nostro dissenso, il dissenso di Erasmus Network e di tutti gli studenti spagnoli, in modo che poi lui possa portare il pensiero di tutti questi studenti direttamente a Madrid. È una bella sfida, però crediamo che proprio nel momento in cui il programma Erasmus vuole cambiare volte, vuole dare maggiori fondi a livello europeo, un paese come la Spagna in grosse difficoltà economiche non possa sicuramente tirarsi indietro. Chiudiamo con una bella immagine. Cosa succederà oggi pomeriggio? Tra poche ore in Piazza Santi Apostoli, quindi proprio 2 passi da Piazza Venezia a Roma, avremo il momento del Free Hugs, un momento in cui circa 1.500 studenti Erasmus si daranno questo abbraccio simbolico per far capire che anche se l'Europa si trova di fronte ad alcune problematiche piuttosto imponenti, gli studenti ci sono presenti, si abbracciano, fanno capire che col progetto Erasmus l'Europa davvero c'è e non esistono davvero più quelle barriere che purtroppo ancora in altri casi vediamo, quindi sicuramente vogliono far capire che l'Erasmus riesce davvero ad avvicinare chiunque. Tutte le informazioni sul sito esnitalia.org. Ciao, grazie e grazie. Buona giornata. Ciao. Grazie a voi. E a proposito di cultura europea, questa settimana sempre a Roma si è tenuto un dibattito pubblico organizzato dal Goethe Institute intitolato Da Vinci, Don Chisciotte e la democrazia, cosa ci fa sentire davvero europei? Sono stati commentati i risultati di un sondaggio dove oltre 22.000 persone di 30 paesi appartenenti all'Unione Europea, un sondaggio a cui hanno fatto domande relative proprio a quella che è la cultura europea, cosa significa Europa, cosa ti fa sentire europeo, come vedi il futuro, quali sono i personaggi o i simboli che caratterizzano questa identità europea. I risultati sono stati commentati da alcuni corrispondenti della stampa estera, c'era Jörg Bremer del FAZ Germania, Marek Lennert della radio polacca e poi c'era Paloma Garcia Overhero dei Radio Cope Spagna ed è qua con noi. Ciao Paloma. Ciao, buongiorno. So che hai esultato quando hai visto che il personaggio più avvincente della storia della letteratura europea secondo il sondaggio è Don Quixote. Ho un grande onore perché è chiaro che per noi gli spagnoli Don Quixote è un grande, una figura, un simbolo, non è soltanto un personaggio della letteratura, ma per me è stato una sorpresa sapere che anche per gli altri europei è anche questo simbolo, perché non è un libro facile, ma secondo me l'hanno scelto, non è perché lo hanno letto tutti, ma perché si ricorda Don Quixote come questa figura della lotta contro i molinos di vento, la libertà, certo. l'ideale. Alcuni risultati, allora, il più importante politico europeo ha vinto Angela Merkel, il più importante artista europeo in tutti i campi e in tutti i tempi, Leonardo da Vinci, poi qual è il più importante contributo dell'Europa alla cultura mondiale, al primo posto di questo particolare sondaggio ha vinto la democrazia, in quale altro paese oltre al tuo ti piacerebbe vivere? La Germania, insomma tanti risultati, tanti commenti, immagino, però ci puoi fare un riassunto di quello che è uscito come risposta alla domanda cosa ci fa sentire davvero europei? Sì, prima da tutto ti dico che penso che la domanda oppure non l'abbiamo fatto bene o non hanno capito, perché dire che l'Angela Merkel è la più importante, una delle più importanti della storia di un'Europa che comincia poi da Platone oppure Aristotele, che sono anche i politici europei che hanno costruito questa cosa che chiamiamo Europa, la Merkel è ancora, non è solo viva, ma è ancora nel potere, quindi secondo me è un po' presto per dire sì, è la più importante. Questo mi ha dato di pensare che forse ne abbiamo un concetto dell'Europa troppo recente, non abbiamo questo senso storico, e mi manca una risposta, mi manca il cristianesimo, sì. Perché secondo me in queste radici culturali dell'Europa non si può capire senza il cristianesimo, non si deve essere credente o non credente, non è quello il fatto, ma è nella nostra essenza, sicuramente, nella nostra origine. Sicuramente. Cosa significa per te l'Europa? Era la prima domanda e la risposta è incoraggiante, nel senso che al primo posto c'era cultura, poi comunità e poi libertà di viaggiare, insomma tre risposte nel segno dell'ottimismo e nel segno del futuro. Tu Paloma, se io dico Europa, qual è la prima parola che ti viene in mente a te? Io dico Europa, io penso a libertà anche. Okay, abitare Europa vuol dire che possiamo esprimere tutti i nostri pensamenti e possiamo abitare come cittadini liberi. Questa libertà che per noi è una cosa normale, non è neanche un valore quotidiano, secondo me è la cosa più grande. Infatti la democrazia è fatta grazie alla libertà. E facciamo nostra questa tua parola. Grazie davvero. Ciao Paloma, buon sabato e alla prossima qui sempre sull'Altra Europa. Adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando e poi torniamo in Spagna. Euro post-it. My Wall, il mio muro in cortometraggio. Il 9 novembre del 1989 veniva annunciata l'apertura del muro di Berlino. Nel 2014 saranno passati ben 25 anni da questo evento che ha cambiato non solo la Germania ma anche l'Europa. Se avete più di 20 anni sicuramente ne ricordate le immagini. Che cosa è cambiato in 25 anni? Quali sentimenti e ricordi avete di quei giorni? Perché questo evento è ancora importante? Se invece avete 20 anni oggi, sicuramente vi avranno parlato di quei giorni, ma sapete anche che ci sono ancora tanti muri che dividono paesi e persone. Quali altri muri contemporanei dovrebbero essere abbattuti? Che cosa associate a questo anniversario? Raccontate il vostro muro in un cortometraggio d'animazione e partecipate a My Wall, il concorso internazionale dedicato al 25esimo anniversario dalla caduta del muro di Berlino, indetto dal Goethe Institut, in collaborazione con il Festival Internazionale Cortoons. Il concorso è dedicato ai registi e alle scuole di animazione di tutto il mondo e deve raccontare la caduta del muro da un punto di vista soggettivo. Se volete saperne di più e conoscere il regolamento, andate sul sito dedicato mywallcontest.com. L'altra Europa. La llamábamos boca de rosa y era tan bella como cariñosa. La llamábamos boca de rosa, sabía de amor más que de otra cosa. Apenas bajos en la estación de un pueblo llamado Piedrahíta, advertimos de una ojeada que no se trataba de una monjita. Hay quien hace el amor por cumplir, hay quien lo elige por profesión. Boca de rosa ni el uno ni el otro, ella solo lo hace por pasión. Mas la pasión a veces conduce a saciar un capricho. In questi mesi, in questi anni abbiamo raccontata la crisi, abbiamo raccontato la crisi attraverso storie, attraverso interviste, cercando di offrire anche altri punti di vista. Abbiamo parlato tante volte della Grecia, tante volte del Portogallo, tante volte della Spagna. E proprio in Spagna andiamo oggi e andiamo con Silvia Ragusa, che è una giornalista freelance che ha fatto un bel articolo sul sito L'Inchiesta. Ha raccontato la crisi da un osservatorio curioso, bizzarro, divergente, che è quello delle case chiuse. Le case chiuse a Barcellona. Silvia ha intervistato una tenutaria storica di un bordello, così per parlare di crisi e non solo. Silvia Ragusa qua con noi. Ciao Silvia. Sì, buongiorno. Intanto entriamo nella testa della giornalista freelance. Come ti è venuta l'idea di questo pezzo? Beh, in realtà devo dire che io sono, diciamo, mezza spagnola, quindi in realtà questo personaggio un po' si conosce in Spagna, si chiama Lidia Artigas, è una prostituta, insomma, abbastanza nota, che esercita da più di 30 anni, quindi insomma un personaggio storico, anche perché lei aveva scritto un libro in cui racconta, insomma, i suoi incontri con diversi personaggi famosi, tra cui Salvador Dalí, Orson Welles, eccetera. E da lì, insomma, mi è venuta un po' l'idea di capire un po' oggi come funziona il mondo delle case chiuse, parlando appunto con lei. Ed è emerso appunto un dato anche abbastanza preoccupante, nel senso che ci sono tantissime donne che in questo periodo, appunto, soprattutto per colpa appunto della crisi economica, bussano alla sua porta, almeno così, insomma, lei mi ha raccontato, mi ha detto che nell'ultimo anno circa 5-6 donne al giorno andavano, insomma, in cerca di lavoro da lei. Mm-hmm. Ricordiamo l'inchiesta.it, il sito, abbiamo già pubblicato sulle nostre pagine Facebook e Twitter, le mie personali, Federico Taddia, il link all'articolo. Lei risponde che però non offre lavoro a chi lo cerca per disperazione, vero? Sì, è vero, lei ha una concezione un po', diciamo, tradizionalistica del fare il mestiere, quindi insomma vuole donne anche che che vogliono un po' mettersi in gioco su questo campo, quindi non dà lavoro alle, diciamo, alle disperate. È anche vero che comunque la maggior parte delle donne che si esercitano nella casa chiusa, lei mi ha detto che sono circa una cinquantina, e comunque hanno problemi economici, non so, magari un marito malato, un marito anche disoccupato, o comunque insomma dei familiari cui badare. Uh-huh. Tra l'altro, dal punto di vista della legislazione, le case chiuse sono regolamentate come in Spagna? No, in realtà non so, diciamo, sono autorizzate ma non sono legalizzate, questa è anche una cosa un po' curiosa, nel senso, lei mi ha detto che diciamo, fa fattura, quindi uh-huh. Paga le tasse in Spagna, però... insomma, mette su che ha un centro di massaggi terapeutico piuttosto che un solarium, e così un po' gestisce tutto, però effettivamente la prostituzione non è regolarizzata, anzi lei si batte da anni anche per questo. Barcellona, dove l'amore si fa per soldi, è l'articolo di questa intervista a 360 gradi. Silvia, cos'è la Spagna oggi? Ne abbiamo parlato davvero tante volte. In questi giorni, tra l'altro, c'è stata la protesta dei netturbini. Credo ci siano problemi reali di rifiuti per strada nelle città spagnole. Ma l'umore qual è? Siamo a disperazione, rassegnazione? C'è aria, c'è voglia di ripresa? Qual è il polso della situazione? Ma il posto della situazione è che purtroppo si è, insomma, in questi giorni si è tanto parlato di una uscita dalla crisi, no? Insomma, l'uscita dalla recessione, anche in base agli ultimi dati finanziari che sono emersi, però l'economia reale è ancora piuttosto, insomma, piuttosto messa male, quindi effettivamente Madrid adesso è invasa dai rifiuti, appunto per, come dicevi tu, questo sciopero dei netturbini che già si protrae da più di una settimana. Stiamo parlando di un piano di ridimensionamento di circa 1.300 dipendenti e di salari ridotti al 40%. Se consideriamo che un salario medio va dai 500 ai 1.300 euro, il 40% di riduzione del salario è piuttosto pesante, soprattutto perché si tratta anche di famiglie in cui magari la moglie piuttosto che i figli hanno perso il lavoro. Ricordiamoci sempre che in Spagna parliamo di un tasso di disoccupazione al 27%, quello giovanile siamo già oltre il 50%, quindi la situazione in realtà è molto grave. Mm-hmm. Diverse volte, studiando la Grecia, siamo incappati, dove ci sono anche lì ovviamente numeri altissimi di disoccupazione giovanile, siamo incappati tantissime volte però in gruppi di giovani che o le famose start-up in chiave innovativa, ma non solo, tantissimi giovani comunque che si sono buttati, hanno colto la crisi come un'occasione per reinventarsi, per ripartire, comunque per provarci, e stanno nascendo davvero tantissime realtà promettenti. Sta succedendo qualcosa di simile anche in Spagna? Tu sicuramente conosci un po' il mondo giovanile, ci sono scintille che si stanno accendendo quella? Beh sì, più che altro ci sono delle, diciamo, c'è molta associazione, sono nati molti gruppi, insomma, già a partire dagli Indignados, ma molti gruppi anche più piccoli, insomma, di presa diretta di coscienza, cercano insomma un po' di arrangiarsi, però sinceramente devo dire che tantissimi anche amici personali che ho sono andati via dalla Spagna. La verità è che molti si sono trasferiti in Germania piuttosto che in Inghilterra, molti ancora in Sud America, anche ovviamente grazie al vantaggio della lingua, e quindi in realtà c'è veramente una diaspora di giovani in questo momento dalla Spagna. Mm-hmm. Energie, idee, creatività, insomma, che si perde, che se ne va. Grazie davvero a Silvia Ragusa, ricordiamo l'inchiesta.it. Ciao Silvia, buon lavoro. Ciao, grazie. E questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Un grazie alla squadra dell'Altra Europa, Margherita Ina, che con me ha scritto la puntata, e alla parte tecnica oggi Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che ci potete trovare sul nostro sito radio24.it. La puntata sarà disponibile in podcast da lunedì, oppure Federico Taddia mi trovate sia su Facebook sia su Twitter. L'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.